pratica attività sportiva, a chiamarci per raccontarci i segnali che il corpo manda durante, prima o dopo l'allenamento o in gara, in modo da capire se e come si possono affrontare, nel caso prevenire, questi problemi adottando strategie alimentari o di allenamento. Dico bene? Certo, strategie alimentari è molto importante, perché se io mi sento dei chili addosso di sovrappeso e penso ad esempio di mangiare di meno per perdere quel peso, sto sbagliando, perché se io vado a mangiare di meno vado a indebolire una serie di segnali ormonali che invece mi servono per fare attività sportiva in maniera efficace, efficiente. Quindi è importante concentrarsi invece sulla qualità del cibo, perché lo sportivo è una persona che ha bisogno di benzina di alta qualità. Se io metto nella, noi per la nostra automobile siamo tutti attenti, no? Prendiamo l'olio migliore, prendiamo, invece per il nostro corpo tante volte risparmiamo su questo, su quello. Quindi il costo va bene, il prezzo d'accordo, però dobbiamo cercare a un prezzo ragionevole prodotti di alta qualità. Quindi... Ma quali sono i segnali che uno sportivo amatoriale, non stiamo parlando di campioni, avverte a livello di disagio? Io penso al crampo, piuttosto che non riesce a finire l'allenamento, o è particolarmente stanco, non gli viene voglia, che sono proprio spia di un'alimentazione non adeguata. Forse non ha mangiato le proteine a colazione. Ecco, dottor, no, lasciami, vado dal dottor A. Lasciami intervenire un istante, perché su questo la scusa dei crampi, a parte effettivamente uno squilibrio dal punto di vista nutrizionale, poi a volte è solo legato al non uso, nel senso che è vero che a volte servono un'integrazione di minerali, bilanciare, però è normale che uno che inizi a muoversi abbia dei fenomeni in cui sente il muscolo. Allora, a volte la logica non è ho il crampo, mi fermo, ma ho il crampo e aumento un pochettino l'allenamento, do più continuità e poi i crampi passano, perché siamo abituati anche a questo. Questo credo che Luca mi potrà confermare, questo tipo di logica. Sì, io dico, per lo sportivo ci sono 4 regole importanti che vanno seguite: normocaloricità, normoproteicità, equilibrio minerale e protezione antiossidante. Sono 4 regole così enunciate, veloci. Sì, me le ripeta. Allora, normocaloricità. Normocaloricità vuol dire mangiare tutto ciò di cui abbiamo bisogno da un punto di vista calorico. Sì. Normoproteicità vuol dire coprire l'intero fabbisogno proteico di cui abbiamo necessità, perché noi tutti siamo fatti di proteine, le nostre cartilagini, le nostre ossa, i nostri muscoli, ma anche la nostra pelle, il nostro collagene, cioè tutto, abbiamo bisogno di proteine in quantità adeguata. Ecco perché mangiare al mattino per incominciare bene, poi anche a pranzo e a cena naturalmente, e poi abbiamo bisogno di una copertura minerale, col discorso dei crampi, e antiossidante, per quindi questa grande necessità di frutta, verdura, cibi sani. Mi dice i minerali, quali sono i minerali importanti, che sono per tutti, ma lo sportivo abbiamo, in modo particolare, ecco, abbiamo forse una sportiva, perché, Abbiamo una sportiva donna di 28 anni, le donne in età fertile hanno spessissimo carenze di ferro, noi andiamo a vedere sugli esami del sangue magari il valore della sideremia, che è quasi sempre a posto, però magari la ferritina ha un valore che non è asteriscato, però è 12, 15, 18, sono valori molto bassi su cui bisogna magari intervenire con un'integrazione e poi capire se magari la mestruazione abbondante può essere una causa importante di perdita. Per i maschi perdita. Invece, che non hanno questa fortuna? Sì, no, ecco, per i maschi talvolta si trovano delle carenze di potassio, delle carenze di magnesio, anche qui delle carenze di ferro, talvolta legate anche al fatto per esempio che la corsa rompe dei globuli rossi tutte le volte che noi corriamo, qualunque tipo di sport che comporti un impatto con il terreno, anche non so, pallavolo piuttosto che tennis o altro, comporta una rottura di globuli, e quindi anche qui una perdita di ferro che va recuperata. A parte la rottura di globuli, che detta così suona male, però se non piace lo sport, voglio dire che si rompono i globuli e si rifanno, e che è uno stimolo allenante, che non è una cosa negativa, perché io conosco persone che dicono: ecco, siccome sento il ginocchio e sento e mi si abbassa l'emoglobina un po', allora smetto di correre. No, aggiusta la modalità. Soffri con e corri. Oh. Ma non c'è medico che non si esima dal dare. Quando io con grande fatica porto una persona a muoversi, arriva magari, sono stato all'ortopedico, mi ha detto no, smetti subito di fare attività. No? Perché non siete ancora d'accordo. Non siamo ancora d'accordo. Cioè. Invece vado ad Alessandro, perché invitiamo i nostri amici, naturalmente, se hanno qualche dubbio nello sport, nel loro allenamento, nella loro dieta, di chiamarci, perché il dottor Luca Speciani,

Sì, tra l'altro anche i suoi parenti l'hanno sentito. Esatto. Senti Laura, io sto organizzando, perché la Deborina mi ha detto: mi raccomando, cogliamo l'attimo, una puntata sui diamanti, eh? E ti invito a non perdere. Sì, sì. Oppure a fargliela ascoltare in podcast. Sì, no, ma tanto non ne perdo neanche una. Brava. Quindi. Senti, com'è andata? È andata bene, è un po' è veramente buona come dieta, è un po' tanto, perché anche come avevo scritto poi su Twitter, le merende sono un po' tanto, ecco, arrivo proprio tanto sazia. Sì. E quindi ho diminuito un po' le dosi. Penso una dieta che ti dice che ti fa diminuire che soddisfazione, ne hai tolto anche un po'. Esatto, ne ho tolto anche un po'. E poi magari ho semplificato un po' le ricette, perché mi sono un po' demoralizzata in alcune occasioni. Senti, ma hai imparato qualche cosa da queste ricette, oppure le hai dovute modificare? Sì. Sì. No, insomma, dacci un voto, dai un dacci un voto e datti un voto. Io consiglierei all'Italia la minestra di fave, perché io la mangerei tutti i giorni a questo punto. La minestra di fave. Buonissima. Dottor Attilio Speciani, le fave ci piacciono. Ci piacciono moltissimo. Tutte, guardavo questa lista prima discussa, un mucchio di, tra l'altro, di proteine assolutamente anche di tipo non animale. Ce ne sono date e descritte, per cui anche in una scelta di tipo vegetariano, ad esempio, c'è una possibilità di spaziare abbondantemente in modo sereno e tranquillo. Per cui quindi... Laura, avanti tutta, insomma. Sì, siamo già pronti per la prossima settimana. E vai. Carichi. Allora, domani ci sentiamo per i diamanti. Va bene, un bacio. Ok, ciao. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Allora, abbiamo Gianluca da Brescia, un attimino, un inviato di cuore. Gianluca, buongiorno. Pronto, buongiorno. Che soddisfazioni allora. Che mi dà Gianluca, il kit sta già arrivando, di corsa. Molto bene, fa molto piacere. Innanzitutto, vabbè, i soliti, che spero siano graditi, complimenti per la trasmissione, che viaggiando molto in macchina non la perdo mai. Bravo. Io sono, mi reputo uno sportivo, nel senso che io faccio durante la stagione, diciamo, invernale, rugby regolarmente, 2-3 volte a settimana. Quindi c'è anche un fisicaccio. Sportivone. Della uno partita. E più amo molto lo sport, quindi quando finisce il campionato mi dedico a mille altri sport, che vanno dalla camminata in montagna, molto la bici, sì, un po' di palestra, specialmente sui circuiti, eccetera. Il mio problema è che ho molte difficoltà a correlare un'adeguata alimentazione con la mia attività fisica. Nel senso che io faccio, diciamo, commerciale, quindi sono molto spesso in giro, muori, molto spesso, certo, di fretta. Quindi mi trovo a fare sport magari la sera e arrivo in carenza, quindi ho un po' sopperito prendendo qualche volta gli amminoacidi un'oretta prima dell'attività sportiva, ho visto che già mi cambia molto. Però la mia domanda era come riuscire a correlare sia i tipi di sport che faccio, perché chiaramente se faccio magari palestra, certo, immagino che l'alimentazione sia diversa di quando vado a far bici, e con il mio lavoro, anche perché poi i risultati sul fisico poi insomma si vedono. Allora Gianluca, lei stia lì, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Dottor Luca Speciani ha registrato tutto? Registrato. Subito dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. Voglio fare l'inviato su Marte per un telegiornale. Eh sì, siamo sempre a Cuore Denari Expo, ci siamo noi, ci sono i nostri esperti, ci sono anche i nostri inviati, che siete voi, che ci chiamate all'800240024. Il vostro contributo è importantissimo in questo percorso che settimana dopo settimana ci sta accompagnando nei temi di Expo, e per questo mi sembra utile ricordare le convocazioni per i nostri inviati di questa settimana. Per i denari ai nostri ascoltatori chiediamo un piccolo reportage su due prodotti, pollo e pasta o riso integrale, come li trovate commercializzati, quanto costano nel supermercato sotto casa vostra, in che formato li acquistate e per cucinarli in che modo, li mangiate da soli, in coppia, insomma dite tutto. Naturalmente approfittate anche dei consigli del nostro coach di risparmio Luciano Mazzone, amministratore delegato di Clicca Promo, che non credo che sia un buon cuoco, ma sicuramente ci fa risparmiare.

rugby né in una qualunque situazione sportiva. Quindi in quella situazione io non ho alcuna possibilità digestiva, no? Posso soltanto assimilare degli zuccheri molto facilmente assimilabili, che sono invece i nemici più grandi della mia pancetta durante la vita quotidiana. Quindi io sì, vado un po' a ribaltare, cioè durante un'attività fisica, naturalmente non mille metri di corsa, ma un'attività fisica prolungata, come può essere una mezza maratona, come può essere un'uscita lunga, una camminata in montagna, eccetera, io ho bisogno di zuccheri facilmente assimilabili. Quindi il miele, per esempio, in questo caso è un ottimo alleato per, non per sfruttare anche tutte le vitamine, i minerali, sì, gli antiossidanti che sono presenti. Ma possono esserci delle bustine, possono sì, essere, no, anche, ecco, magari cercando di qualità, ecco, ma anche voglio dire, qualunque cosa, dei succhi di frutta, della frutta disidratata, qualcosa che in una camminata vale in montagna può tutto, essere utile, va bene un po' tutto, ma deve essere molto facilmente assimilabile, ah, molto facilmente digeribile. Mentre in un'attività molto quindi la camminata in montagna, in un'attività molto intensa invece io devo astenermi dall'assumere qualunque cosa, quindi posso assumere acqua, sali minerali appunto e qualche zucchero disciolto dentro, ma nulla di più, perché durante quell'attività non potrò assimilare niente e devo partire a stomaco vuoto, perché se io parto a stomaco pieno ho un furto di sangue che avviene a danno dei miei muscoli, a certo, danno di quello che mi deve trasportare fino all'arrivo, perché lo stomaco mi porta via sangue, mi porta via ossigeno, mi porta via energia. Quindi io devo stare a stomaco vuoto, ma possibilmente a scorte piene, cioè devo aver mangiato la sera prima o la colazione del mattino, devo aver mangiato con abbondanza per avere tutta l'energia che mi porterà fino all'arrivo. Alessandro, mangiamo in abbondanza, perché la dieta che avete costruito per Linda è una dieta molto equilibrata, ricca per una sportiva. Naturalmente darete anche dei consigli nelle 4 settimane per prepararla anche a questa mezza maratona, chissà poi che non arrivi a farne un'intera e poi l'ultra. A Cuore Denari ci piace dare anche dei consigli molto concreti, pratici, quindi con te entriamo in cucina. Che trucchetti ci regali? Beh, per esempio si potrebbe prodursi, diciamo, in casa delle fette biscottate integrali, comode anche per la colazione, sì, utilizzando il pane fresco acquistato in giornata, tagliandolo magari a fettine molto sottili e facendolo dorare in forno. Il giorno dopo diventa perfetto per avere delle fette biscottate integrali appunto caserecce, sì. Oppure se magari produciamo un po' di pasta piuttosto che di riso in più in cottura, ne teniamo magari sempre un pochino di scorta per il giorno dopo, per avere un'insalatona fredda con della carne avanzata cotta. E si mescola al tutto, lo fa anche Luciano Mazzone, mi sa, ma sì, cosa esatto, mi diventerà? E noi cosa diventeremo con Clicca Prome, i consigli dei nostri esperti? Il dottor Speciani si ferma, vero? Io mi fermo, certo. Bene, invece il dottor Luca Speciani ci saluta. Salutiamo anche Alessandro. Buona giornata. Grazie. A tutti. Leggete naturalmente le indicazioni sulle nostre pagine. Devo salutarvi perché abbiamo il nostro GR, ma torniamo subito dopo con i mestieri del cibo e con tanti altri consigli. Cuore e denari. Certo, la terra è come una donna. Ogni stagione cambia la gonna, è gialla d'estate, grano maturo. Siete sempre in compagnia di Cuore Denari Expo, qui siamo sempre in movimento, un po' come la nostra sportiva Linda, seguitela mi raccomando sulle pagine, sul suo profilo. Noi siamo sempre al lavoro per preparare nuove puntate che speriamo settimana dopo settimana vi interessino sempre di più. Scrivetecelo e ditecelo, che ci fa piacere. A proposito, continuate a compilare anche il nostro questionario che trovate sul sito di Radio 24 nell'apposita sezione dedicata a Cuore Denari Expo. Una sezione ricca di notizie, approfondimenti e naturalmente ricette, liste della spesa che arricchiscono il percorso di ogni protagonista e di ogni categoria. E siamo sempre al lavoro anche per parlarvi di lavoro nella nostra rubrica dei mestieri del cibo, che ritroviamo proprio adesso insieme alla nostra Fernanda Roggero di Food 24 del Sole 24 Ore. Ciao Fernanda. Buongiorno a tutti. Fernanda, ricordiamo cos'è la rubrica I mestieri del cibo e cosa possono scoprire i nostri ascoltatori nel corso delle nostre puntate visitando, e mi raccomando fatelo, il sito di Food 24. Allora, questo è il nostro progetto nato per Expo. Abbiamo pensato di affrontare il tema di nutrire il pianeta e tutto quello che è legato al cibo dal nostro punto di vista, visto che noi siamo solo 24 ore, abbiamo pensato di parlare di lavoro e quindi di tutti i nuovi mestieri, nuovi o vecchi mestieri reinterpretati che sono legati in qualche maniera al cibo. Certo, senti, oltre a visitare il sito del Sole 24 Ore, ricordate, andate a dare un'occhiatina a Food 24 e seguite tutti gli aggiornamenti. Ricordatevi però che comprando il quotidiano oggi troverete un inserto speciale, tutte le novità per IMU e TASI. Siete preparati? Lo chiedo anche al dottor Speciani che si è fermato qua e anche a Luciano Mazzone che è qui. Campo tosto, serve l'informazione. Abbiamo dedicato la puntata di venerdì, c'è ancora in podcast, potete ascoltarla, ma soprattutto andate a prendere questo inserto speciale pensato per aiutare i contribuenti a capire come compilare i modelli e come effettuare senza errori il pagamento in vista della scadenza che, ricordiamo, dell'acconto è il 16 giugno. Ci teniamo a segnalarvelo perché è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Non a caso abbiamo dedicato la pagina di Denari proprio a questo lunedì scorso. Potete, come vi ho detto, riascoltare il podcast sulla nostra pagina del sito di Radio 24 e tra l'altro voglio dirvi che il nostro esperto Mirko Mion ci sta aiutando a rispondere alle mail con le vostre domande su IMU e TASI che ci sono arrivate e continuano ad arrivare all'indirizzo cuoredenari@radio24.it. Ma torniamo al lavoro con Fernanda, oggi un'altra donna che ci racconta il suo mestiere del cibo. Direi che è una puntata in rosa perché Linda, la nostra sportiva donna, e Valeria Mosca parla di un mestiere che è veramente particolare, il forager. E parla anche di alimurgia, che è una parola che tu senti. Come si chiama? Alimurgia. Già in un mondo pieno di elfi solo a pronunciarla. Senti, vogliamo salutarla Valeria Mosca che è in linea con noi. Valeria, benvenuta. Ciao, buongiorno, grazie. Senti, Fernanda è entusiasta di te, ci ha raccontato delle cose magnifiche. Vero Fernanda? Grazie, Fernanda. Assolutamente sì. Spiegaci bene cosa significa essere una forager, mi sembra un po' Katzinger di Crozza. E come nasce questo mestiere? C'è un'altra parola che ci devi spiegare bene, la citata Fernanda, alimurgia. Sì, allora diciamo che l'alimurgia è proprio la scienza che si occupa di andare ad esplorare le varie possibilità del cibo selvatico e utilizzarle nei momenti di carestia o povertà. Mentre il mio lavoro è un po' più semplice e diciamo che sono semplicemente una raccoglitrice, cioè vado per ambienti incontaminati ricercando vegetali o parte di essi che possono essere appunto ritenuti adatti al nutrimento umano. Sì. Senti Fernanda, noi prima di andare in onda dicevamo però si raccolgono, veramente l'ha suggerito Luciano Mazzone, si raccolgono magari in città queste erbe non sarà che ci possiamo fidare? Sì. E Fernanda puntualmente ha la risposta, sì. Vai. Apparentemente sì, no, ci possiamo fidare, tanto è vero che ci sono anche delle prove scientifiche, i ricercatori dell'Università di Sheffield hanno fatto uno studio e garantiscono che le particelle inquinanti che eventualmente si depositassero su questi cibi, su queste piante, a parte che possono essere facilmente rimosse con un lavaggio molto accurato, ma comunque non si accumulano all'interno dei frutti e quindi questo ci dovrebbe dare delle garanzie. Senti Valeria, ma come si diventa forager? E poi che cosa si raccoglie, dove si va, come ci si forma? Sì, allora, io ti posso parlare della mia esperienza personale. Certo, mi interessa molto. Sono stata abituata a raccogliere fin da piccola, in quanto è una passione che mi ha passato mia nonna, che era una raccoglitrice un po' per necessità e un po' per professione, abitando in una valle molto isolata sulle Alpi. E questa passione poi me la sono portata avanti, ho studiato antropologia all'università dove ho trovato comunque delle materie molto attinenti all'argomento, poi ho lavorato in cucina sì. Per il resto della mia vita dove ho potuto approfondire la ricerca sulla materia e quindi anche la limurgia e tutto quello che ne concerne. Per chi volesse avvicinarsi a questa disciplina consiglio di fare dei corsi, di studiare moltissimo e di affidarsi soprattutto all'esperienza di chi è già in grado di raccogliere, in quanto può essere anche molto rischioso. Certo, scusami, e quindi ci sono dei corsi che tu vuoi segnalarci magari? Sì, dove si possono trovare? Poi... Anche io tengo dei corsi. Bene. Io ho fondato 4 anni fa Wooding Wild Food Lab, che è un vero e proprio laboratorio di ricerca sull'utilizzo del cibo selvatico in cucina. Noi ci occupiamo di formazione soprattutto, quindi offriamo questi corsi che vanno da corsi veramente hobbistici, diciamo, a corsi più professionali, dove chiunque può appunto imparare da zero questa disciplina abbastanza complessa. Fernanda, mi sembra che avesse una curiosità. Beh sì, diciamo anche che... se di Valeria tu sei tutto. Più o meno, non si può mai sapere tutto. Però c'è da dire che questa cosa delle erbe spontanee ormai ha un utilizzo molto più esteso, perché è stata sdoganata anche dai grandi chef. Sì. E quindi si usa anche nelle cucine dei ristoranti. Molti di questi chef hanno dei veri e propri pusher che gli portano queste erbe che gli servono. Tutto è iniziato in Europa del Nord, in Danimarca, perché tutti conoscono, cioè tutti insomma, gli gourmet conoscono bene René Redzepi, che è stato considerato per diversi anni tra l'altro il miglior chef al mondo, e su questo forse potremmo avere qualcosa da ridire, ma dovremmo sentire Davide Paolini. Esatto, ma glielo chiederemo. Ma lui è stato il primo a mettere nei piatti muschi, licheni, insetti eccetera, e quindi è stato lui che ha dato un po' il via. Sull'insetto avrei qualche problema. Muschi e licheni ai supermercati, ipermercati Luciano Mazzone, non ne troviamo? No, per direi ora. Di no, ecco, per ora no, esatto, e neanche insomma, se si trovano insetti non è un buon segno in questo momento. Ma prima o poi li mangeremo, eh? Esatto. Sì, ci sono. Valeria, ma anche le erbe naturalmente hanno la loro stagionalità. Adesso che cosa possiamo facilmente, senza paura di sbagliare, raccogliere? Allora, adesso la natura ci offre già i primi frutti. Per esempio, buonissime e molto facili da raccogliere sono le more di gelso. Che troviamo. Sai che ci sono anche degli alberi di more di gelso al Parco Ravizza a Milano. E in giro un po' anche per Milano nelle città. Sono veramente buone. Sono buone. Sì, sono dolcissime. E poi ci sono tantissime erbe in questo momento e anche i fiori di queste erbe. Fra le più comuni posso citare il tarassaco, la piantaggine, la cetosa, che oltretutto hanno tutti dei toni veramente diversi, perché abbiamo parlato di erbe amare, di erbe acide, di erbe più aromatiche, quindi ci si può veramente sbizzarrire con questi gusti e toni. Volevo sentire anche il parere del dottor Attilio Speciani riguardo alle erbe, perché sicuramente aiutano, no? Anche questi sapori hanno un significato. A parte la piantaggine, sto pensando che trovo direttamente nel campo intorno a casa, che ha, quando è appena nata, questo sapore di quasi un po' buono, perché è uno spinacino selvatico strano, però ha questo gusto quasi da funghino trifolato, che è molto particolare. Però le altre piante, tutto sommato, io ho il mio orticello delle erbe che tengo, che curo, conservo, perché quelle rare volte che mi faccio una grigliata, piuttosto che quando mi faccio le frittate, piuttosto che assolutamente le utilizzo. Mi piacerebbe sentire un'indicazione tra raccogliere ovviamente in campo aperto e le persone che si dedicano a coltivarsi un ortino segreto, come dire, no? Piccolo, ma con tutte le varie erbe utili poi per la parte alimentare. Valeria. Sì. Allora, diciamo che le erbe che si raccolgono spontaneamente, cioè che crescono selvatiche, hanno sempre dei toni, organoletticamente parlando, molto più accentuati, in quanto crescono in un ambiente completamente naturale, che non è stato appunto selezionato dall'uomo, e sono in grado di instaurare delle sinergie con l'ecosistema in cui vivono, molto strette, no? E questo permette loro di essere più autentiche, però certamente si possono piantare, perché no, nel proprio orto, e cercare di ampliare così il proprio supermercato personale, diciamo. Senti Valeria, quali sono gli errori da evitare nella raccolta delle erbe spontanee? No, ci sono tantissime regole per il perfetto forager, diciamo, che oltretutto sono elencate sul nostro sito, c'è una pagina apposita. Sono regole che vanno a tutelare soprattutto l'ambiente, perché dobbiamo ricordarci di non essere saccheggiatori, ma invece al contrario di entrare in armonia con la natura, e quindi di conoscere gli ecosistemi a cui andiamo ad attingere. Quindi sono regole di tutela ambientale, e poi ci sono anche delle regole importanti di tutela personale. Bisogna ricordarsi che per ogni pianta buona esiste generalmente un soldo cattivo. Il soldo cattivo può essere anche tossico oppure mortale. Quindi il consiglio che mi sento di dare principale è quello di andare a raccogliere quando ci si sente veramente preparati. E ci sono anche delle, la tecnologia che aiuta. La tecnologia aiuta perché stanno cominciando a nascere delle app da utilizzare nel proprio smartphone. Ad esempio a Roma ce n'è già una che si chiama Frutta Urbana e praticamente dà una geolocalizzazione di tutte le piante di frutta che crescono in città. Molto probabilmente la faranno anche a Milano adesso. A Milano e speriamo poi in tutte le città. Grazie Valeria Mosca, complimenti. Grazie a voi, grazie. Intanto un ascoltatore ci ha scritto che il luppolo selvatico in risotto a Brescia lo chiamano Loertis, buonissimo, sembra un po' un asparago selvatico, si fa anche la frittata. Intanto continuate a raccontarci se siete raccoglitori di erbe o se le utilizzate, dove le raccogliete. 800 24 00 24. Abbiamo promesso ai nostri ascoltatori il kit degli inviato, hanno superato la barriera rosa. Stefano dalla provincia di Bologna, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Stefano, Stefano sì. Mi scusi, ma io ho un appuntamento, ho sbagliato io, dovevo sentire prima Massimo che è lì, che secondo me ci aspetta. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Poi riprendo Stefano, mi perdoni ma ho dato la precedenza a Stefano quando lei aspettava da tempo. Grazie e scusi per l'attesa, ci dica. Buongiorno, io volevo dare la mia testimonianza perché sono uno sportivo, faccio triathlon. Sì. Da più di un anno e da più quasi due anni sono vegetariano. Sì. Quindi volevo dire a tutti che si può fare tantissimo sport anche senza mangiare la carne, senza mangiare le uova e derivati. E quindi lei ottiene grandi risultati. Tra l'altro un profilo che sarà seguito dalla dottoressa Luciana Baroni, lo dedicheremo proprio al vegetariano, è il prossimo. E quindi seguiteci. Dottor Speciani, l'aveva già anticipato. Dire, già nella trasmissione abbiamo proprio segnalato come la possibilità di acquisire proteine effettive da vegetali, usando dalle mandorle, non tanto sui legumi che sono un apporto ma non così cospicuo. E poi ovviamente ci sono vegetariani che mangiano uova o latticini, altri che li tolgono. Ci sono qualche problematica in una continuità d'uso sul vegano che si propone invece con una situazione in cui va in alcune carenze documentate, specifiche, che vanno comunque compensate. Quindi la logica è quella che c'è spazio per muoversi in tutte le possibilità e io sono uno legato al concetto di dieta individuale, non al concetto di una dieta assolutamente definita. L'importante è raffrontarsi con i bisogni che ogni persona ha. Stefano, eccomi a lei, dalla provincia di Bologna. Sì, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io sono abbastanza sportivo, diciamo, faccio un po' di movimento, soprattutto nei weekend, bicicletta. Il mio problema è questo, non riesco a mangiare la mattina presto. Prima delle 10:30-11 il mio stomaco non si sveglia e quindi faccio fatica a seguire una dieta corretta. E quindi porta poi ad avere la pancia. Non si scoraggi Stefano, che secondo me ce la fa. Ma ci sono dei trucchi, l'importante è capire che cosa vuole, perché mangiando la sera si mette in moto un meccanismo che porta a aumentare la circonferenza della pancia e a mettere grasso esattamente nei posti sbagliati. Quindi per iniziare a mangiare al mattino bisogna fare come Mazzone, che intanto bisogna avere un'illuminazione sentendo qualcuno che ne parli, e poi provare per 2-3 sere a mangiarsi solo un piatto di insalata, a mangiarsi una mela, e vedrai che al mattino si sveglia che inizia a dire però, la fame da però un pochettino di qualcosa mangerei, ma non mangiare un po' poco, no, provare effettivamente a fare una mela o qualcosa di questo genere come cena e vedrà, le garantisco che nel giro di poco inizierà a sentire anche degli stimoli mattutini che saranno quelli più positivi per la sua salute. Allora Stefano, ci faccia sapere, noi siamo qui e poi le ricette, il supporto dei nostri coach, e abbiamo un altro amico di Cuore Denari, Luca Voledo, naturopata, nutrizionista a Milano. Buongiorno dottora Voledo. Eccoci, buongiorno. Non potevamo oggi. Abbiamo parlato di erbe e di erbe vogliamo parlare con il dottor Voledo. Tra le piante di cui ci ha parlato la nostra forager, giusto Fernanda, si dice così? Forager, sì. Ce n'è qualcuna utile a scopo salutistico per il nostro benessere, oltre che infilarla in cucina? Lei ha citato il tarassaco, la piantaggine che il dottor Speciani ha nel prato vicino a casa sua, dottora Voledo. E come no, queste sono erbe che hanno anche un lungo uso tradizionale arboristico. Il tarassaco, il dente di leone, il soffione, come si suol dire, è un classico diuretico noto fin dal Medioevo, utile anche per stimolare l'attività della colicisti, la secrezione biliare. Quindi una pianta molto molto interessante, soprattutto. Ma noi se la raccogliamo cosa ne facciamo oltre che mangiarla in insalata? In un minutino?